English Bit di Giulia Crivelli. Claw. The Revenant finally claws its way to number one. Il quotidiano britannico The Guardian ha dato i risultati di pubblico nel Regno Unito del nuovo film di Alejandro Iñárritu con Leonardo DiCaprio e Tom Hardy. La traduzione è The Revenant, il re di vivo in italiano, compie la sua scalata per arrivare al primo posto. To claw one's way significa infatti arrivare a forza di unghiate, artigli, letteralmente, a un obiettivo. Il verbo è stato scelto sicuramente anche per la sua assonanza con i temi del film, diventato famoso ancora prima di uscire nelle sale per la scena in cui DiCaprio viene attaccato da un orso grizzly, che quasi lo uccide con i suoi claws, artigli appunto. Ma vediamo alcuni usi della parola. To get your claws into somebody è un modo negativo per dire che qualcuno si è attaccato a qualcosa. If a woman gets her claws into a man, she tries hard to make him marry her or have a relationship with her. Se una donna artiglia un uomo è perché vorrebbe riuscire a farsi sposare o almeno ad avere una relazione con lui. Ma si può dire anche: wait until the media gets its claws into the story. Aspetta che i media si impossessino della storia, diremmo in italiano. Un po' quello che è successo questa settimana con la storia delle statue dei musei capitolini coperte per eccesso di zelo per non offendere il presidente iraniano. I media hanno in effetti got their claws into the story e per giorni non si è parlato d'altro. Per tornare agli animali, magari non pericolosi come un orso grizzly, si può dire «The cat was clawing at the leg of the chair». Il gatto si stava facendo le unghie su una gamba della sedia. Se il verbo usato dal Guardian è «to claw to», esistono anche «to claw into», rafforzativo, «to claw out», da usare sia in senso figurato sia letterale. «She clawed her way to the top of her profession». Si fece largo a forza di unghiate fino al gradino più alto della sua professione, del suo campo di attività, oppure slowly he clawed his way out of the collapsed building. Lentamente si fece strada a fatica e riuscì a uscire dall'edificio che gli era crollato intorno. Infine, due parole composte, clawback, che indica lo sforzo per ottenere il pagamento di debiti scaduti da tempo, e clawhammer, che in italiano definiamo martello a granchio, quello che ha la punta divisa in due, quello particolarmente adatto a togliere i chiodi già conficcati nel muro.